La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato alle canzoni che hanno accompagnato, a partire dagli anni 50, lo sviluppo economico e sociale italiano. Ospite ai nostri microfoni Giuseppe Antonelli, docente di linguistica italiana all'Università di Cassino e autore del volume Ma cosa vuoi che sia una canzone? Mezzo secolo di italiano cantato, edito da Il Mulino. Raccontare quasi 60 anni di storia del nostro paese attraverso le canzoni che hanno accompagnato lo sviluppo economico e sociale italiano a partire dagli anni 50 e dagli inizi degli anni 60. È il tentativo di un libro scritto da Giuseppe Antonelli per Il Mulino dal titolo Ma cosa vuoi che sia una canzone? Mezzo secolo di italiano cantato. È una sorta di viaggio nei mutamenti che ha subito la nostra lingua attraverso i testi delle canzoni più famose, ma è anche una ricerca che ci consente di capire come l'evoluzione della lingua sia stata in qualche modo lo specchio delle profonde trasformazioni che in 60 anni hanno investito la società e il costume del nostro paese. Il Festival di Sanremo, che si è chiuso lo scorso 20 febbraio nella sua 60esima edizione con la vittoria del giovane Valerio Scanu, è stato per molti anni lo specchio di questo cambiamento, soprattutto negli anni 50. L'anno della svolta è il 1958, quando Domenico Modugno canta sul palco del Casinò di Sanremo Nel blu dipinto di blu, scritto insieme a Franco Migliacci. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare è molto più di una canzone. È uno spartiacque, uno di quegli indicatori che scandiscono inesorabilmente un prima e un dopo, segnando la data d'inizio della vera canzone d'arte moderna italiana. La canzone ha uno straordinario successo. Decisivo è il fatto che a partire dalla metà degli anni 50 l'ascolto della musica non avviene più solo attraverso la radio e la TV, ma attraverso i dischi che promuovono una fruizione consapevole della musica, ora collettiva e pubblica attraverso il jukebox, ora individuale e privata. Nel 1955 vengono importati in Italia i primi jukebox. Nel 1958, lo stesso anno di Volare, si verifica il passaggio al 45 giri. E a Volare sono anche le vendite, 10 milioni di dischi, con un incremento del 100% rispetto all'anno precedente. Si respira un'aria nuova in quella fine degli anni 50. Il boom economico indotto dall'esplosione dei consumi fotografa un'Italia alla ricerca di un riscatto dopo gli anni difficili della ricostruzione. È un paese che sta cambiando pelle, pur tra mille contraddizioni e problemi endemici come il crescente squilibrio tra nord e sud. Modugno riesce a interpretare quel sentimento comune. Volare, oh, cantare, oh, nel dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. La canzone Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno segna dunque un'epoca. Ne parliamo stasera con Giuseppe Antonelli, autore del libro che ha ispirato il nostro piccolo viaggio di oggi alla ricerca delle radici che dagli anni 50 in poi hanno cambiato il modo d'essere nel nostro paese anche attraverso le canzoni. Il professor Antonelli insegna linguistica italiana all'Università di Cassino. Professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi interpellato, buonasera. Allora, noi abbiamo parlato finora dell'anno della svolta, il 1958, con la canzone di Modugno. È corretto definirlo l'anno della svolta e cosa accade dopo? È il l'inizio di una rivoluzione linguistica che però richiederà una quindicina d'anni per arrivare a compimento. Volare è un momento di rottura per tutto quello che riguarda l'aspetto musicale, il modo di cantare, la gestualità del cantante e anche i temi della canzone, un po' meno per quanto riguarda proprio l'aspetto specificamente linguistico. Ci sono tutta una serie di alleggerimenti, non ci sono certo quelle parole come beltà che era pochi anni prima in tutte le mamme del mondo, però rimangono alcune vezzi, alcuni artifici, per esempio quello di cambiare l'ordine delle parole per ottenere una rima baciata, venivo dal vento rapito per far rima con infinito, oppure gli occhi tuoi blu, non i tuoi occhi blu, per far rima con più su. E poi anche l'abitudine di spezzare il verso per avere un accento sull'ultima sillaba, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché. Insomma, Modugno dà il via a una rivoluzione che peraltro in qualche modo lui stesso smentirà, perché poi testi come quello di Dove c'è ciao bambina o quello di Piange il telefono rappresentano un ritorno indietro notevole nell'ambito dell'evoluzione della lingua canzonettistica. Ecco, professor Antonelli, una cosa interessante che ci piace approfondire questa sera con lei, in che modo l'aspetto linguistico e quindi il mutare del modo di interpretare, cantare e di scegliere le parole nelle canzoni segue o interpreta, se vogliamo, i grandi mutamenti economico-sociali che attraversano il nostro paese, soprattutto in quegli anni che erano gli anni della grande espansione economica, il boom economico. C'è un nesso tra i due aspetti? C'è un nesso. La lingua, la canzone arriva sempre un po' dopo, come forse è inevitabile che sia, ma riflette altri cambiamenti sociali. Questo avviene per quanto riguarda il boom economico tra fine anni 50 e primi 60, e forse non solo nel testo di Modugno, ma pensiamo ai testi di Celentano, per esempio, con questo nuovo genere, il rock and roll, e queste parole molto spesso proprio provenienti dall'inglese o dall'anglo-americano, testi che parlavano del jukebox o dei blue jeans, e in qualche modo questa è una traccia linguistica lasciata anche dall'American Way of Life, aveva cominciato scherzandoci sopra Renato Carosone. I giovani si stanno adeguando a questo stile di vita che diventa anche stile di lingua, e questo succederà anche più avanti. Gli anni tra il 68 e il 70 sono anni decisivi nella società italiana, ma sono anni decisivi anche nella lingua della canzone italiana. Si comincia con la canzone che Tenco presenta a Sanremo nel 67, quella sì, che poi provocherà il suo suicidio, che è una canzone strana, tutta basata su una sintassi nominale, priva di verbi di modo finito, e che si punta molto la propria struttura sull'infinito, sul modo dell'infinito, come se quel volare si fosse esteso dal ritornello a tutta la canzone. Poi tra il 67 e il 68, esce nel 67 l'album, ma entra in classifica nel 68 l'album di De André, in cui c'è tra le altre canzoni Re Carlo ritorna dalla battaglia di Poitiers, un testo di rottura, un testo in cui appare la prima parolaccia della storia della hit parade italiana, in cui c'è questo gioco di quasi il comico, di contrapposizione tra aulico e basso. E poi i primi testi che cominciano a cantare le cantanti italiane, le grandi interpreti come Nina, Lavanone, Patti Pravo, che cominciano ad avere allusioni sessuali sempre più esplicite. E l'importante è finire, addirittura aveva il testo di Cristiano Malgioglio, aveva come titolo originale, poi censurato dalla Rai, l'importante è venire. E già, perché poi nel frattempo la società italiana era notevolmente cambiata, e dunque anche in questo le canzoni interpretano un nuovo modo anche di essere degli italiani in quel periodo. Stiamo parlando dello scorcio anni 70, inizio anni 80. E quello è un altro momento di svolta. Per quanto riguarda la storia della lingua della canzone, dicevo, il processo cominciato con Modugno arriva a compimento proprio all'inizio degli anni 70. All'inizio degli anni 70 Mogol Battisti cominciano a trovare l'equilibrio perfetto della loro miscela tra musica e testo, e Mogol mette a punto questa miscela che da un lato conserva l'elemento tradizionale, non ce ne accorgiamo, per esempio nella canzone del sole, le bionde trecce, gli occhi azzurri, e poi a un certo punto si parla di gote, che è chiaramente una parola letteraria, non certo una parola del l'italiano quotidiano. D'altro canto, Brommo Gol è capace di orecchiare tutta una serie di novità che vengono dal linguaggio quotidiano. Ad esempio, introduce, per parlare d'amore, massicciamente la metafora analitica, i complessi, il masochismo, e quindi ricodifica il linguaggio d'amore nelle canzonette. Poi 76, 77, fine anni 70, c'è il fenomeno circoscritto, non entra nelle classifiche, ma cambia molto il costume della canzone italiana, degli Schiantos a Bologna, il rock demenziale che fa il verso al punk, e di lì si apre la breccia a tutto quello che poi sarà il linguaggio giovanile, che invece tracimerà nelle canzoni alla fine degli anni 80 con Cecchetto che manderà avanti prima Jovanotti e poi gli 883. Quindi il linguaggio giovanile, da linguaggio di trasgressione, da linguaggio demenziale, diventerà il linguaggio normale della canzonetta. Professor Antonelli, tante grazie per il suo contributo. Grazie a voi per l'attenzione e per l'invito. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.